Va bene, allora iniziamo. Volevo solo dire due cose. Uno, prendiamo in considerazione, così come recita il titolo, il paradosso afgano, ma non è semplicemente chiaramente per parlare di Afghanistan, ma così come un po' tutto il lavoro che stiamo svolgendo ci contraddistingue, è quello di cercare di mettere in relazione fatti e avvenimenti con qualche cosa un po' più importante. Il più importante in questo caso, chiaramente stasera parleremo di Afghanistan, ma il più importante è il rapporto che esiste tra il ritiro delle truppe americane e il ridimensionamento del gendarme mondiale. Questo è uno degli aspetti. Un altro aspetto è in che rapporto questo ritiro, e questo sarebbe un argomento non solo di discussione, ma sarebbe un argomento che in parte ci stiamo dedicando, il rapporto che intercorre tra ritiro delle truppe americane e situazione sociale all'interno del cuore della Russia, cioè all'interno del paese più importante dal punto di vista capitalistico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista dei movimenti che si sono manifestati, eccetera, eccetera. Perché è evidente che il vuoto, bene o male, mi riferisco all'area afghana, viene comunque colmato da qualcuno o da aspiranti tali, sta a vedere se il fisico potranno averlo o meno. Oggi, la mia opinione, questa è la mia opinione, qualcuno che abbia il fisico di sostituire gli americani, secondo me non c'è, però si può aprire qualsiasi discussione. E detto questo, soprattutto andare a capire che tutte le motivazioni che fanno sì che il vero nemico degli Stati Uniti, cioè che è il proletariato internazionale, al momento abbastanza dorme. Questa è forse la questione più importante. L'ultima cosa che dico è chiaramente, Francesco cercare di star dentro in 35-40 minuti massimo, proprio per favorire la possibilità di discutere. Faccio però anche presente che tutti coloro che vogliono intervenire di stare non solo in argomento, ma di essere abbastanza brevi, così più possono parlare. Grazie. Allora, parlare oggi dell'Afghanistan, penso che finirò per parlare più di altre cose che dell'Afghanistan in sé, perché va inquadrato, secondo me, all'interno del quadro generale di declino del capitalismo statunitense, fenomeno che ha le sue origini nell'economia, ma che si collega a tutta una sfera di elementi politici, sociali di vario genere, è espressione, prodotto, con causa di questo declino inarrestabile del capitalismo degli Stati Uniti. Ricordiamoci, giusto poi si può ritornare, che per quanto riguarda l'Afghanistan, diciamo che non sono stati battuti sul campo aperto dal punto di vista militare, certo non sono riusciti a conquistare e imporre la loro pax imperialista su tutto il paese, ma nasce da questa cosa. Parlando di questo problema, penso sia necessario specificare che non si può intervenire su tutto, c'è una marea di argomenti sono importanti, ne cito tre su cui questa sera non intervengo, non perché non siano importanti, ma perché non ce la faremo a discutere. Eventualmente vediamo o successive serate o nella discussione. Il primo problema è quello del ruolo avuto dall'Italia, concretamente, politicamente e militarmente, e nella barbarie di questa occupazione. Pensiamo eventualmente un'altra riunione su questa cosa, ma non è che ci scordiamo di quello che ha fatto. Diamo poi, secondo punto, per scontato che a chi oggi partecipa sia chiaro il significato di classe di quella cosa barbara che è l'esportazione della democrazia a mano militare fatti dall'Occidente, quindi non intervengo su questa cosa che è barbarie pura, fatta da tutti quanti i paesi che hanno partecipato alla coalizione. E poi c'è una questione che sarebbe molto importante, specie da un punto di vista polemico e di battaglia politica in questa fase, che è quello della donna in Afghanistan, perché la gran cassa della propaganda occidentale imperialista è incentrata sulla faccenda della donna. Sarebbe lunghissimo parlarne, penso che posso solo dire che abbia dato piena e incondizionata solidarietà alle rivendicazioni, alla lotta per l'emancipazione contro la repressione gestita dai talebani, a partire da quello che scrive Rawa, la rete rivoluzionaria delle donne afghane, in cui nella bibliografia che avete avuto ci sono i riferimenti dove è andato a trovare il materiale, che si trova anche in quello del CISDA, dell'Osservatorio Afghanistan, che è molto interessante e non ha nulla a che fare con quel femminismo, chiamiamolo imperialista, specie americano, che ha appoggiato i bombardamenti in nome anche della difesa della donna. Chi ha voglia si guardi, ci sono delle cose interessanti scritte da questa femminista americana, Rafia Zakaria, proprio su questo tipo di problemi. Quello che volevo anticipare, diciamo, rispetto al discorso complessivo, anche per chiarire le coordinate in cui intendo muovermi, rispetto anche a quello che abbiamo sentito, a quello che ci hanno raccontato dell'Afghanistan, la prima cosa che penso, che il peso maggiore in questi 20 anni di guerra locale, più i 20 anni precedenti collegati alla guerra civile, ai colpi di Stato, all'occupazione russa e così via, l'hanno sopportato in Afghanistan, il proletariato, le masse povere afghane e anche irachene, quelle collegate tutto all'interno del quadro della lotta al terrorismo, colpite da quello che è stato né più né meno che il terrorismo degli stati occidentali. Penso che questo vada detto con estrema chiarezza. Li hanno sopportati sotto tutti gli aspetti, non sto a fare le cifre che notano in termini di morti, feriti, di profughi e così via, a cui aggiungiamo che oggi stanno per patire carestia e fame dopo il blocco dell'economia successivo alla fine dell'occupazione militare, al fatto che hanno tagliato tutti quanti i finanziamenti in corso, il flusso, hanno bloccato i fondi sovrani afghani nelle banche occidentali. In teoria l'ONU avrebbe stanziato 600 milioni di dollari, che però sono vincolati a condizioni, e la Cina avrebbe dato 31 milioni di aiuti, di cui però non è noto ultimamente e decisamente la gestione. Primo punto, quindi stiamo dalla parte delle masse afghane. Secondo punto, la colpa di quanto è avvenuto, il modo in cui si è usciti e le sue conseguenze non penso che ricadano solo sugli americani, c'è una corresponsabilità diretta di tutto l'imperialismo occidentale, Italia compresa, e per quanto riguarda l'Italia non è un problema semplicemente della destra. Con chiarezza va detto che quella che sarebbe la cosiddetta sinistra al governo e all'opposizione ha per 20 anni sostenuto, appoggiato, diretto questa guerra barbarica in Afghanistan, in Iraq e in tutta quest'area. L'ha sostenuto con il voto e con la diretta organizzazione quando era al governo. Ha approvato tutto, non ha fatto nulla. Ultima cosa, nulla contro. Da che parte stiamo per essere anche questi qui chiari? Siamo contro l'occupazione militare, contro la barbarie di questi bombardamenti, contro la barbarie occidentale del terrorismo di Stato di questi 20 e più anni, ma siamo anche contro i talebani, né più né meno. Sapere chi sono i talebani, qual è la natura di classe, non è molto difficile, si sa da 20 anni a questa parte, siamo contro di loro. Non hanno alcunché di antiimperialista, di progressista o di rivoluzionario. Sono contro la rivoluzione, contro la emancipazione sociale, siamo contro e contro, non appoggiamo nessuno di questi, e questo è anche il punto di partenza di cui ci interessa di questa questione Afghanistan, perché l'esperienza del movimento operaio, dello stalinismo dalla seconda guerra mondiale ma anche prima, che ha fatto è stato quello di ricercare sempre un alleato da appoggiare, da con cui collegarsi, allearsi, fosse l'imperialismo, il capitalismo dominante avversario, però democratico, fosse il locale democratico e così via, no, non c'è alcuna sponda, fronte da appoggiare, a partire da queste situazioni locali più il generale. Il proletariato, le masse povere, possono contare solo su se stessi e devono staccarsi dagli fronti di guerra, organizzare il disfattismo rivoluzionario. Penso che queste premesse siano necessarie per capirsi su dove si vuole andare. E il primo punto che vorrei intervenire, e mi rendo conto che sarò schematico, dico alcune cose così, ne riparleremo, perché sarebbe anche noioso entrare nei termini economici della faccenda. Da quello che è successo, da come bene si è usciti dalla situazione afghana, è ovvio che vengono rimessi in gioco Cina, Russia, una serie di comprimari locali come l'India, il Pakistan, il Turkmenistan, la Turchia, il Qatar, a vari livelli. Non sto qui a fare la storia, una cosa penso vada sottolineata. Nonostante gli appetiti che ci sono, i guadagni privati, il problema non era né per gli americani prima né per nessun altro oggi impossessarsi delle riserve in materia prima dell'Afghanistan o pensare che nell'Afghanistan fai grandi investimenti che risolverai le crisi, eccetera, così via. Gli affari, gli investimenti si fanno a livello di paesi capitalisti dominanti, non con i paesi arretrati. Però diventa un punto di confronto, di conflitto tra gli interessi e i blocchi che sono diventati molto di più in questa fase di disgregazione dell'imperialismo e del capitalismo dominante. Venendo meno gli americani come ruolo di gendarme fondamentale, ruolo di locomotiva, la loro uscita di scena, che poi vedremo anche un po' di motivazioni, rimette in gioco e fa entrare altri attori in quest'area. In primo luogo i cinesi sono quelli che maggiormente si stanno muovendo in quest'area. Si stanno muovendo certamente, sono interessati alle riserve di rame e di litio che sono piuttosto abbondanti in Afghanistan. Sembra che ci siano già una ventina di aziende tra private e statali che stanno cercando di intervenire. Detto questo, si parla molto di questa faccenda, giusto per inciso, i cinesi sarebbero interessati anche ai cosiddetti terre rare, riserve terre rare che sono in, ce ne sono anche in Afghanistan. Va detto questo, rame e litio non fanno parte delle terre rare, le terre rare sono altre. Se una voglia, è citata nella bibliografia, c'è un numero della rivista Valori che fa riferimento al fatto che i cinesi hanno già il monopolio mondiale delle materie rare per quanto riguarda l'estrazione e per quanto riguarda la produzione e commercializzazione. Tra l'altro, sembra che esista, io non sono molto ferrato in questo, un problema tecnico. Se tu estrai metalli rari in una zona, non puoi farlo allo stesso modo in un altro, perché come si sono formati queste concrezioni minerarie è diverso da luogo a luogo. Sicuramente sono interessati agli oleodotti, ad avere un rapporto privilegiato col Pakistan in funzione anti-cinese, anti-indiana, questo è scontato, però quanto, come andranno avanti, quanto influenzeranno la situazione, è una porta aperta che dobbiamo vedere. Dicevo prima che hanno dato 31 milioni di euro, di dollari, ma come? Con che contropartite? Che passi avanti vogliono fare? Ricordo solo che i cinesi hanno tenuto aperto l'ambasciata, ma non è che hanno formalmente riconosciuto il governo talebano, e hanno detto, tra l'altro, avreste dovuto fare un governo con rappresentanza anche di elementi non talebani, con la formula che è stata escogitata anche dalla conferenza del G20, che non vuol dire assolutamente nulla. Interessati sono sicuramente i pakistani. I pakistani sono intervenuti e vogliono in qualche modo levare l'influenza indiana dall'area. L'India è stato uno dei partner fondamentali in Afghanistan nel periodo precedente per quanto riguarda costruzione di centrali, presenza finanziaria e così via. Ma è un problema che sussiste ugualmente, vedremo cosa succederà anche questo, tenendo presente comunque sono attori comprimari India e Pakistan che detengono arsenali nucleari in questa fase, che cosa non da poco. Uno dei più interessati alla situazione interna è il Turkmenistan, che ha questo famoso oleodotto TAPI, una delle grandi idee che si vuole pensare. Questo oleodotto dal Turkmenistan fino all'India, non è stato fatto molto di questo, ci sono problemi di vario genere. I turkmeni già avevano chiesto garanzie prima della fine del regime di occupazione ai talebani che potessero fare questa cosa avuto, non è mai partito niente in Afghanistan. In Pakistan ci sono una serie di proteste e manifestazioni contro la presenza indiana e cinese attorno a questo progetto di oleodotto e così via, e vedremo. Tra l'altro, quando parliamo di riserve e di oleodotti, io direi che c'è da fare sempre un certo riferimento. Ho messo nella chat una, come si dice, una piccola carta tratta dal Jazeera che riguarda dove sono, quali sono i grandi oleodotti di gas e di petrolio nel mondo. Se uno se va a guardare, vedrà che sono i paesi capitalisti fondamentali, occidentali e no, che sono quelli in cui esistono, diciamo, le condotte del gas. Se questo sta avvenendo, si sta muovendo dal punto di vista dell'aspetto economico, in realtà l'Afghanistan è una zona di frattura negli equilibri interimperialisti, è una zona militare fondamentale, ci vanno avanti da tempi immemorabili. Chi si ricorderà, c'era ai tempi degli anni 70 Brzezinski, segretario di Stato, che parlava dell'arco della crisi, e una di queste lati ci sono, uno di questi punti era l'Afghanistan. Qui cosa sta succedendo? Ci sono dinamiche che vanno nel senso di accelerazione dei conflitti della guerra anche al piano locale, che ci sono e non possiamo vederla solo sull'Afghanistan, elementi che tra virgolette possono essere ritenuti di ritardo. Pensiamo a una serie di cose che stanno avvenendo. Ad esempio, non mi riferirò solo all'Afghanistan perché è connesso. Gli USA, che si stanno ritirando anche dall'Iraq e hanno deciso questo, hanno confermato che manterranno 2.500 soldati in Iraq in questa fase, dopo il 31-12-21, formalmente con compiti di addestramento e consulenza dell'esercito. Ricordiamo che sono lì, da lì colpiscono tutta l'area, hanno già mandato un monito preciso all'Iran con i droni, hanno la capacità di colpire anche individualmente, come hanno dimostrato, elementi di potere, elementi intendo individui di potere in Iran, in Afghanistan e non solo, e quindi sono lì a contenere la penetrazione iraniana in Iraq e a far vedere che possono dominare la situazione anche in questo modo. Un altro fatto che va tenuto presente è che l'Italia da maggio avrà il comando della missione in Iraq, della missione NATO in Iraq, e sta facendo dei passaggi che sono, diciamo, dal punto di vista strettamente militare interessanti. Primo, sta decidendo alla fine di armare i droni, ha avuto il permesso americano, i droni MC-9 Reaper, e di poterli utilizzare. Questi finora erano solo di avvistamento e di prospezione, potranno invece essere armati, e sono gli stessi con cui gli americani andavano a bombardare da Sionella in Libia e anche in Afghanistan, in Iran, in Iraq, in Pakistan. Allo stesso modo la difesa ha richiesto urgentemente la dotazione, proprio per le mutate esigenze, dei droni kamikaze. È stato approvato in novembre pressoché all'unanimità dal Parlamento l'utilizzo per le forze speciali nei teatri operativi, che dovranno, nelle operazioni prima partica e quella NATO nell'Iraq, usare questi droni, suicidi li chiamano, con una commessa di 3,9 milioni di euro. Non costano molto, sono droni che vengono lanciati dalle forze speciali su obiettivi a distanza ravvicinata, limitata, che vanno una tantum e usati solo per bombardare. È stato richiesto come urgente per la nuova situazione che si è creata nel teatro locale. Un altro punto che potrebbe essere interessante considerare: dal 22 al 25 novembre alla NATO i pakistani militari sono andati a un incontro a Bruxelles e l'Italia è uno dei principali fornitori di armi alla Pakistan, dal Pakistan, che è uno dei attori di questa scena. Contemporaneamente Putin ha fatto un accordo militare, c'è qualcuno che si è connesso ed ha problemi, Putin ha fatto un accordo militare della durata di 10 anni con l'India, quindi contromossa sullo scacchiere. L'Italia, per dire, o applicherà e userà in questa zona, sta ottenendo e in parte tutta l'approvazione per ritrasformare, ricambiare i blindati leggeri dell'esercito, quelli che vediamo anche a Milano in Piazza Duomo, i Lince, con i Lince 2. Ne ha 1.700 in dotazione, ne ha chiesti e ottenuti 3.600 euro, giusto così per dire. Quelli che ha in dotazione costavano 860.000 euro l'uno, quelli che sta acquistando i 3.600 hanno prezzi che oscillano tra i 1.600 e i 2.200 euro, milioni di euro. 2.200.000 euro, perché sono quelli legati a internet, a cose del genere, sono prodotti dall'Iveco e saranno utilizzati in tutta una serie di contesti. Quindi c'è una tendenza a riarmarsi e a muoversi. Lo stesso, stanno avvenendo dei fatti che ci devono dar da pensare, che scombinano tutte le carte, sono connessi anche a quanto è avvenuto in Afghanistan, che non sono nello stesso teatro. Pensate che l'Europa ha appena fatto, cioè sulla Gazzetta Ufficiale Europea di qualche giorno fa, la sanzione, una serie di sanzioni a seguito di quelli americani contro il gruppo Wagner russo, che è stato fatto su richiesta dei francesi, per la presenza in Centro Africa, in Sahel, oltre che in Libia, delle truppe mercenarie della Russia. E lo stesso, i casini avanzano, pensiamo alla presenza militare italiana e francese in tutta l'area del Sahel e in tutta l'area dove ci sono riserve ritenute strategiche dal punto di vista energetico, alla guerra in Etiopia e in Eritrea che si sviluppa, ma anche l'intervento di questi giorni delle brigate al Samud a Tripoli fa saltare quello che era un quadro che tentavano di pacificazione, far rilanciare la situazione. In questo contesto si stanno muovendo i turchi, che sono stati temporaneamente messi da parte in Afghanistan, ma proseguono col discorso degli oleodotti in Turkmenistan e con le rivendicazioni e l'accordo militare attorno a Cipro, fatto con l'Egitto e quelle, tutte queste cose che rilanciano la situazione e sono connesse a quanto avviene in Afghanistan. Quello che però più ci preme, penso che sia la questione che, diciamo, il ritiro degli USA dall'Afghanistan sia espressione del venir meno di quello che era stato il loro ruolo predominante dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Gli Stati Uniti non sono più in grado, per il ciclo economico, perché costa sempre di più avere truppe impegnate a destra e a sinistra nel mondo, sono indebitate fino non so dove, molto anche con la Cina e così via, hanno ridotto non casualmente il peso specifico delle spese militari. Potrà sembrare un paradosso, ma le spese militari americane in rapporto al prodotto interno lordo sono in costante decrescita, perché non ce la fanno. Questo non vuol dire che non si riarmino, ma sono in costante decrescita. Non siamo di fronte a un armamento dispiegato in maniera che cancella altri aspetti della vita economica in questa fase, perlomeno. Poi vedremo. non sono più in grado, perché hanno anche una concorrenza sempre più agguerrita. L'avversario principale è la Cina, in questa fase che sta crescendo, al di là delle valutazioni che possiamo dare di questo suo sviluppo economico. Abbiamo avuto questa ritirata, c'è una linea di continuità da Obama, Trump e Biden, non c'è, c'è una compartecipazione proprio per l'incapacità di riportare la pace imperialista sul piano interno. Dicevo prima che non sono stati sconfitti sul campo, ma ho messo sempre nel chat una piantina del 2016 che è stata riportata da Milex. Non so se la state guardando, è una pianta dell'Afghanistan. Le zone rosse e rosso scure sono quelle che erano sotto controllo quasi parziale e quasi totale dei talebani alla fine del 2016. Quello dimostra e dà l'idea di quello che è stato un fallimento totale da questo punto di vista di questa spedizione, totale dal punto di vista, cioè sto parlando strettamente militare. Non sono riusciti, nonostante abbiano messo i piedi sul territorio, mandato le truppe, portato gli alleati, distrutto le risoluzioni ONU, a pacificare nel loro modo, anzi hanno creato ben peggio. Questo vale per tutta la guerra contro il terrorismo, contro l'islamismo cosiddetto radicale. Hanno fatto questa guerra spaventosa con la guerra tra i droni, ma non sono riusciti a creare questo tipo di situazione. È l'espressione del venir meno del loro dominio. Il venir meno del loro dominio, del loro ruolo centrale, mette in contraddizione gli equilibri precedenti. Quello che ne esce è non solo il venir meno di un ruolo predominante di economia, ma viene meno il loro ruolo di gendarme, si aumentano le contraddizioni. Gli stessi Stati Uniti richiedono alla NATO di intervenire, di mettere i soldi in maniera diretta, cosa che se venisse fatta, da un lato va incontro a questo desiderato, dall'altro lato genera anch'essa contraddizioni perché inizia a creare quello che manca in questa fase. Manca un grande contendente militare degli Stati Uniti. Anche la Russia e la Cina non sono in questa fase a livello del potere militare che hanno gli Stati Uniti. Se la contraddizione va avanti con Cina e Russia a livello globale, diciamo, ci sono una serie di passaggi che si stanno facendo, che si stanno muovendo a livello internazionale. Il cuore della contraddizione ritengo che rimanga sempre l'Europa, e le avvisaglie del contrasto possono essere sulla faccenda della Donbass, Ucraina, Bielorussia. Le avvisaglie negli anni passati, negli anni 80, sono state quelle della Jugoslavia, però non sono solo lì. La linea di frattura riguarda tutto il mondo, riguarda quest'area del Medio Oriente, Israele è sempre lì, e riguarda questo conflitto che va avanti, questa contrapposizione più che conflitto che va avanti tra questi capitalismi dominanti, in cui c'è l'incognita dell'ingresso della nuova potenza cinese e la contraddizione. Si sente più. Hai spento il microfono. Hai spento il microfono. Francesco. Sì, okay. Inavvertitamente ho spostato un foglio. Ci sono una serie di fattori, vado veloce perché vedo che sto parlando troppo. Dicevo che, sintetizzo, ci sono tutte queste serie di contraddizioni su cui poi potremo intervenire se vogliamo, una per una, che si stanno manifestando nei rapporti intercapitalisti e nella loro dinamica. Se diciamo, abbiamo visto che c'è una riduzione della spesa militare, ad esempio paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Italia, negli ultimi 3 anni hanno ridotto le spese in termini di percentuale del prodotto interno lordo. Contemporaneamente vediamo che l'Italia negli ultimi 3 anni, per fare un solo esempio, li ha enormemente aumentati e si sta, diciamo, riassestando con quello anche che vi ricordavo prima. Ci sono stati aumenti particolarmente grossi da parte della Cina e della Turchia in questa fase. Quindi ci sono una serie di attori che si stanno muovendo in questo senso. Una cosa però ci deve essere chiara: in questa fase avere armi costa, c'è un indebitamento mostruoso, c'è un declino generale del capitalismo che si riflette su questo, e questo declino, lo ripeto, non si recupera o non si ha alcuna possibilità di sanare intervenendo in Afghanistan economicamente o in questi altri paesi. Il cuore dei rapporti è all'interno dei paesi capitalisti dominanti. Dicevo, si riducono percentualmente sul prodotto interno delle spese militari, ma anche ci sono dei segni contrari, nel senso, da tempo è in corso un riallineamento dal punto di vista missilistico della presenza militare USA. La presenza militare USA si sta riqualificando sul terreno europeo, stanno mettendo dei nuovi missili, e questi missili saranno cosiddetti missili ipersonici, non saranno più missili balistici. Secondo la stampa militare, diciamo, specializzata, sono molto più veloci e invece di andare a parabola vanno dritti e potranno dall'Europa colpire molto più distante. È tutta in discussione la riallocazione di basi in Tagikistan, Uzbekistan e così via, nell'area asiatica da cui gli americani sono usciti, e è uno dei punti di frattura centrale. E diciamo, questa corsa al riarmo si sta comunque riqualificando, al di là del fatto che, lo dico per inciso, gli unici che hanno guadagnato veramente dalla guerra in Afghanistan sono state le industrie d'armi, specialmente quelle americane, che hanno fatto guadagni spaventosi, le cui azioni si sono enormemente più alzate. Contraddizioni che vanno avanti sotto aspetti di vario genere. Vorrei solo dirne una, per dire, ha un senso preoccuparsi, tra virgolette, delle manovre militari russe al fronte della Polonia con 100.000 soldati, fino a un certo punto, per far pressione. Stanno invece cercando di fare qualcos'altro. Nei colloqui tra Putin e Xi hanno tirato fuori l'ipotesi di svincolarsi i loro rapporti economici e dei vari satelliti dal sistema SWIFT. Il sistema SWIFT è quello dei pagamenti internazionali. I pagamenti internazionali sono basati sul dollaro e su questo sistema, quindi chi paga e ha rapporti con paesi sottoposti a, come si dice, embargo, non passa lì. È detto, per inciso, tutto il sistema SWIFT con cui ho lavorato per parecchi anni ha un obbligo di mirroring, cioè di rispecchiamento di tutte le transazioni all'NSA americana, cosa che dà l'idea di, e probabilmente questo gli interessa di più. Antitendenze verso il contro la guerra ce ne sono. La Germania, ad esempio, ha posto il veto alla, diciamo, ipotesi di vendita di armi NATO all'Ucraina. È andata in contraddizione con quello che è la politica degli alleati europei. Biden ha dato garanzie che se la Russia dovesse intervenire in Ucraina, lui non fa un'operazione, una mossa militare. Tutto questo per me è dire una cosa, direi, un po' conclusiva e che non serve dal punto di vista militare. Noi oggi non abbiamo assolutamente idea o cognizione diretta e concreta se ci troveremo di fronte a breve termine a uno sviluppo delle contraddizioni, nel senso dello sviluppo di una guerra tra i capitalismi dominanti. Abbiamo dei segnali di frattura, il problema è capire se sono in grado e sono possibili, sono capaci di conservare le contraddizioni su un piano locale e di continuare a farle manifestare a questo livello. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi la guerra non è mai smesso, non ha mai smesso di essere presente a livello globale, però non è stata una guerra mondiale, non è stata una guerra che ha visto gli imperialismi, ha visto gli armi, ma non ha visto, questa capacità ci sarà, è necessario questo tipo di sviluppo. Al momento noi non abbiamo elementi per dire che necessariamente, indubitabilmente, siamo già in questo tipo di fase. Non esiste, lo dicevo prima, un avversario militarmente in grado, ma però non esiste nemmeno la situazione che verso questo non ci si porti. La guerra è un venir meno del rapporto tra gli equilibri interimperialisti, gli equilibri intercapitalisti. Quando qua salta questo sistema, la politica può portare alla guerra con una serie di mosse che altrimenti non si prevederebbero, non è detto che si possano contenere. Io penso che il declino dei capitalismi dominanti non sia semplicemente una cosa che possiamo imputare agli indici economici, dobbiamo vedere anche come si manifestano su questo piano politico, sociale, complessivo. Oggi abbiamo di fronte un declino che è inarrestabile, che è quello degli Stati Uniti. Abbiamo un'esperienza storica che abbiamo visto alla fine del declino del capitalismo britannico, che è stato sancito e accompagnato da una seconda guerra mondiale. E abbiamo visto questo passaggio. Oggi non siamo ancora qui, però una tendenza in questo senso. Dobbiamo capire se c'è, come si sviluppa, senza anticipare. Ne ha avuto uno snodo nelle vicende afghane. C'era un testo molto interessante di Paul Mattick del 40, La guerra è permanente, in cui parlava di questo fatto che il capitalismo, riproducendosi, crea guerra. Penso che questo dato andrebbe ripreso. Quello che noi abbiamo di fronte è la necessità di iniziare a inquadrare gli elementi che si stanno manifestando e soprattutto vedere e non credere che perché finisce una guerra come è finita questa, non siamo in una situazione che si stiano aprendo per il capitalismo degli scenari di pace. La pace ce l'aveva proposta nell'89 gli Stati Uniti con la fine della presenza del blocco del capitalismo sovietico, in realtà non abbiamo avuto visto altro che guerra. E questa tendenza ne esce rafforzata e ne esce ancora aumentata anche da quello che è avvenuto in Afghanistan. E questo è il paradosso, che più finisce un equilibrio precedente, tanto più noi ci troviamo di fronte a una situazione che mette centrifugamente in discussione gli equilibri precedenti. Vorrei concludere con poche cose, perché vedo che il tempo ormai è troppo. L'indebolimento degli USA sarebbe stato interessante parlarne anche dal punto di vista interno. Uno degli elementi che ha contribuito alla decisione statunitense di andarsene è stato indubbiamente quello della situazione interna, non solo economica ma politica, le ripercussioni interne dal punto di vista sociale, le contraddizioni ultime di Black Lives Matter. Ma voglio solo dire una cosa che a me ha colpito moltissimo di questa fase. Negli Stati Uniti, che hanno avuto, diciamo, il maggior numero di morti non paragonabili a quelli afghani, dal punto di vista delle truppe impegnate, sono state sui 7.000 e passa all'interno dell'Iraq e dell'Afghanistan. Contemporaneamente però hanno avuto una cosa che è quasi a noi. È stato l'11 settembre. Queste sono due date che hanno letteralmente cambiato l'esistenza umana. Infatti, primo, non esisteva più una controparte, non c'era più il pericolo del comunismo, per cui era giustificato una volta il finanziamento del complesso militare industriale. Te credo, abbiamo la minaccia dei comunisti e delle sfere di influenza, e quindi tutta questa tesi dei blocchi eccetera era validissima a quei tempi. Ma una volta che il nemico non c'è più, per fare qualcosa di bellico, visto che il complesso militare industriale americano, non so se avete l'idea, è una roba mastodontica negli Stati Uniti, non poteva morire di morte naturale. Cioè, quando c'è stato Clinton, è stato il primo Clinton a smantellare le basi militari, e a smetterla di a spendere tutti quei soldi per mantenere tutta questa gente qua. E costava l'ira di Dio, militari, ufficiali, industrie legate a questo complesso. Poi, giustamente, è arrivato Bush, il cretino di turno. Scusate, quando è che è scoppiata la guerra in Iraq? Ma scusami, vi ricordate le armi di distruzione di massa? Tutte le cagate più in mano, le figure di merda che hanno fatto gli Stati Uniti per cercare di giustificare la guerra in Afghanistan e in Iraq sono una cosa ridicola, da fin da ridere. E allora chiediamoci un attimo perché hanno fatto queste cazzate. Semplicemente perché sono stati ricattati. Da cosa? Dal complesso militare industriale, che ha detto: qui ci sono i terroristi sono là, cazzo, andiamo là e distruggiamoli. Nel frattempo i poveri lavoratori americani, la cittadinanza americana naturalmente, e anche le corporation poverine americane hanno dovuto mantenere questo complesso e queste corporation legate al complesso che sono andate a fare i soldi. Questo è il nocciolo della questione della guerra, cioè fare soldi. E chi è che ha pagato? Mica l'Afghanistan. L'Afghanistan era il palcoscenico. Hanno pagato gli americani, hanno pagato loro, e lo Stato ha mantenuto queste mastodontiche corporation che si sono magnate l'ira di Dio. Adesso che c'è un debito della Madonna, le corporation e gli americani hanno spinto il governo a dire basta, basta, noi non vogliamo più aumenti di tasse, anzi ce le dovete tagliare le tasse, e non vogliamo più mantenere la gente a fare la guerra in Afghanistan, a cazzo ce ne frega noi. È chiaro che i governi hanno cambiato politica. Non è un caso che Trump vince le elezioni, scusate, un cretino come Trump vince le elezioni perché? Perché la massa di americani ha detto basta con le tasse. Sì, vi taglio le tasse, l'America first, basta andare all'estero a fare i grandeur, preoccupiamoci dei cazzi nostri. E questo è stato l'inizio della fine. Quando l'indebitamento ha raggiunto livelli mastodontici, in pratica i governi, sia Trump, ma prima ancora, giustamente hai detto tu Obama, e poi Biden, ha detto dobbiamo uscirne. E dobbiamo uscirne il prima possibile. Ecco perché gli Stati Uniti sono usciti in questo modo così ridicolo. Perché dovevano scappare dall'Afghanistan gli Stati Uniti. Perché non ce la facevano più a mantenere una situazione di questo genere. La guerra costa, signori. La guerra costa un sacco di soldi e, di, anche di rapporti con la propria popolazione. Quando hanno fatto la prima e la seconda guerra mondiale, i militari, i contadini, i proletari andavano a combattere così tranquillamente, la patria, eccetera. Oggi, prova a dire a un giovane devi andare a morire per la patria, ma ti ride in faccia. Oggi all'interno degli Stati Uniti non hanno più neanche bisogno del fronte interno del Vietnam, c'è già automaticamente il fronte interno. Cioè, i soldati americani non vogliono combattere, tanto è vero che sono tutti immigrati quelli che andavano e venivano assoldati per andare a combattere, signori. Allora, la questione oggi è un'altra, secondo me. No, c'è la questione di andare a vedere, come dicevo inizialmente, tra l'altro Francesco Lisio, però non ho capito perché prima c'è il declino dell'economia americana, poi c'è il rigurgito degli armamenti e del confronto con chi? Con la Cina, con la Russia. Ma guardate che gli Stati Uniti, nonostante il crollo delle spese americane, il grafico l'avrà visto anche Francesco Rizzo, nonostante questo, se dovesse scoppiare una guerra, gli Stati Uniti vincono automaticamente con Cina, con Russia, come volete voi, perché ha già, nonostante tutto, un arsenale militare e di armamenti che è superiore nettamente a tutte le altre cosiddette potenze del mondo, che poi potenze, ma la Cina è una potenza secondo voi. E l'esercito cinese, avete una vaga idea, avete visto tutto quel formicaio che si muove, ma sotto l'aspetto strutturale, non è che la Cina può combattere una guerra con gli Stati Uniti, signori, è fuori dal... ma anche la Russia di Putin, cosa credete? Sono paesi di cartone quelli lì. Non hanno un'economia valida e sostenuta come quella dell'Occidente capitalistico che ha una tradizione della Madonna. Quindi non è così automatico fare la guerra. E in futuro noi le guerre non le vedremo più, signori, ve lo dico chiaro e tondo, perché nessuno vorrà più fare una guerra. ci saranno le guerre guerreggiate nello Yemen, cioè i vari conflitti locali, che poi non contano un cazzo, perché, scusate, cosa vai a prendere in Afghanistan? Le terre rare. Ma se la Cina è il maggior produttore del mondo di terre rare, ha bisogno del deserto afghano per produrre altre terre rare che ha il monopolio già, come dicevi giustamente tu. E la Russia? Che cazzo gliene frega la Russia dell'Afghanistan? Non ha nessun interesse. Nessuno ha interessi in Afghanistan. Non serve a niente l'Afghanistan. Era solo il palcoscenico per andare a rubare soldi al governo americano da parte di queste corporation. E concludo. Le corporation non hanno nazione. Non hanno assolutamente nazione. Le corporation fanno i cazzi loro là dove è possibile far profitto. Ovunque. Anche rubando i soldi al proprio Stato e pagando le tasse in un altro Stato che è più conveniente. Questo è il problema grave che ci si trovano di fronte i lavoratori. I lavoratori in queste condizioni, purtroppo, manifestano molta debolezza, perché queste corporation, non avendo più una configurazione molto chiara con lo Stato o meno, il capitalismo si presenta davanti ai lavoratori per quello che è, chiaramente, che è il capitalismo che ha descritto Marx con le sue cosiddette contraddizioni, cioè il fatto che sfrutta sempre di più i lavoratori di qualsiasi nazionalità essi siano. È questo il nocciolo della questione. Cioè, oggi, se dobbiamo opporci al capitalismo, dobbiamo farlo direttamente lì dove lavoriamo, convincendo i lavoratori a lottare contro il capitalismo. Il problema è che ci siano blocchi russo, cinesi, pakistani o meno, al proletariato mondiale non gliene frega niente, anche perché sono tutte robe, diciamo, di geopolitica, dalla Limes o degli stalinisti, che amavano molto la geopolitica. È lì che bisogna intervenire, purtroppo. E il movimento comunista è debole, è stato indebolito, è stato tagliato. Perché? Perché non ha compreso, secondo me, che i tempi sono radicalmente cambiati, che bisogna porsi in un modo diverso ai lavoratori, nuovo, con un linguaggio diverso, nuovo, che non è il sindacalismo giorno per giorno, è andare a studiare puntualmente quello che accade, e l'economia è alla base di tutto, è quello che ci ha insegnato Marx, e andarlo a riportare ai lavoratori, far capire ai lavoratori che cosa sta accadendo, come funziona il capitalismo, come ha cercato di fare Marx. Grazie. Sandro, hai alzato la mano? Sì, posso parlare? Ma dunque, io non riesco ad inquadrare le cose in una visione così ampia, nuova, determinata come quella che fa presente Antonio. Credo che poi ci siano le contraddizioni reali che arrivano da un sacco di cose, e la semplice predicazione comunista ai lavoratori funzioni poco, se no funzionerebbero lotta comunista, funzionerebbero tutti quelli che fanno, fatto lotta comunista per un esempio, qualsiasi altro va bene, che fanno quel tipo di lavoro. Non ci credo. Credo che ci siano contraddizioni che esplodono in varie forme, e qui rimetto i piedi invece in Afghanistan. Due cose. Pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno lasciato l'Afghanistan, la Cina ha occupato militarmente con i suoi soldati, e credo in accordo con i talebani, la base di Bagram. Io credo che questo sia simbolicamente, e non solo simbolicamente, un atto abbastanza significativo. Secondo, in fin dei conti non è vero che gli americani non sono stati sconfitti in Afghanistan, non hanno vinto. Quindi, per una potenza imperialista che per 20 anni fa la guerra più lunga della sua storia e la fa in Afghanistan, e poi esce in maniera abbastanza disordinata, questa sia una sconfitta. E in un articolo che ho scritto su Carmilla credo che ci siano due cose importanti che hanno contribuito a questa sconfitta. Intanto, non sono i talebani ad aver sconfitto gli americani. È vero, la carta di Milex l'abbiamo vista tutti, ma quelle sono zone molto probabilmente Pashtun. Cioè, visto che i Pashtun costituiscono il 40% della popolazione afghana e sono anche una popolazione piuttosto abituata a combattere da tempi molto antichi, hanno resistito in questi anni. E hanno resistito in una maniera a cui l'esercito imperialista tecnologico avanzato americano non sa rispondere. Perché quando sento parlare di droni, eccetera, è tutto vero. funzionano con gli iraniani, funzionano con gli iracheni, funzionano con i talebani. Non funzionano con un insieme di clan e di tribù disparse sul territorio. Ne puoi fare uno, ma lì non puoi far fuori anche un intero villaggio, come probabilmente è successo, ma non hai modalità di decapitare un comando, non hai modalità di uccidere un comandante unico. E questo è un problema. Questo è un primo problema. Avete citato vari film, io ricordo Restrepo, che è un film uscito nel 2013-2014, in cui un regista americano, adesso dovrei riprendere i fogli, aveva seguito per un anno una compagnia americana dislocata tra le montagne afghane. Questi per un anno non vedono nessuno. Ogni tanto gli sparano un colpo, un soldato, che è quello che dà il titolo al film, Restrepo, viene ucciso il primo giorno e poi non succede più niente. Vanno in perlustrazione, trovano dei villaggi abitati da vecchi che gli offrono il tè. E gli uomini non ci sono. Poi magari sbucano e gli sparano qualche colpo al fortino. Però loro vivono nel fortino. Quindi un'occupazione durata 20 anni, che è stata dentro i fortini, per quanto io sia pienamente d'accordo col fatto che prima di tutto è stato un grande affare per le corporation delle armi, è anche un'occupazione che è riuscita a sviluppare poco altro, no? Quando poi nell'ultimo periodo gli americani hanno dovuto abbandonare Kabul, si è presentato l'opposto, l'altro incubo degli eserciti moderni, perché la guerra, insomma, ha degli aspetti che noi non possiamo dimenticare. La guerra ha delle forme che esistono. Ecco, Kabul è una città che con l'occupazione americana si è urbanizzata enormemente, no? È diventata una città di più di 5 milioni di abitanti, un paese di 38 milioni di abitanti. È diventata una città con 4.200 abitanti per chilometro quadrato. Se gli americani, oltre a non controllare il territorio desertico, montano, eccetera, in cui già era difficile colpire clan e tribù, avessero perso decisamente anche il controllo di Kabul, perché di questo si tratta, perché le grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale davanti si sono combattute in città, Stalingrado, l'insurrezione di Varsavia nel 1944. Io cito la battaglia di Grozny, in cui i russi si sono giocati la prima guerra cecena. Ecco, città con un certo numero di abitanti, una certa concentrazione urbana, diventa un problema. In questo senso credo che, per esempio, questo enorme sviluppo di armi robot che abbiamo, no, di soldati robot, di cose, che sia proprio fatto in previsione di possibili combattimenti urbani. E credo che una cosa a cui aveva accennato Francesco prima sia vera. Cioè, in effetti lo sviluppo delle contraddizioni porterà anche dei conflitti. È vero che noi vediamo la classe operaia dormire, però ormai ci converrebbe parlare di proletariato mondiale, che ancora è estremamente diviso al suo interno, ma che qui e là esplode. E là dove esplode, evidentemente non è così facile da controllare. Non è così facile da controllare. Tanto è vero che proprio Flint, negli Stati Uniti, là dove prima c'erano le industrie dell'auto che sono fallite, là dove ormai la città è stata in gran parte abbandonata per mille problemi, la parte più disastrata della città è usata dalle truppe americane per fare esercitazione antiguerriglia e antiguerra urbana. E le fanno, notate bene, tanto lì è tutto rovinato, non con i proiettili a salve, quelli sparano davvero, usano gli elicotteri, provano a vedere gli effetti sulle case e cose di questo genere. Quindi evidentemente ci sono delle previsioni che vanno in direzione di un conflitto interno, ma anche potenzialmente di conflitti esterni. Io a questa storia che poi le guerre non scoppiano più non ci credo. Nessuno ha programmato la prima guerra mondiale, nessuno ha programmato la seconda e tutto il resto. Ci siamo finiti dentro, passo dopo passo, il riarmo che stiamo vedendo, il fatto che molti attori si presentano allo stesso tavolo con appetiti diversi, no? E con appetiti magari nuovi e nuovi conflitti che si possono aprire. Quindi mettere la mano sul fuoco e dire non c'è più la guerra, non ci credo assolutamente, l'ho scritto nel mio libro qualche anno fa e continuo a dirlo. Anzi, continuo a dire che proprio nel capitalismo questa cosa qui è una cosa insita. Se vi ricordate, l'aveva già fatto Foucault questo rovesciamento, no? Clausewitz diceva la guerra è una continuazione della politica con altri mezzi. No, la politica è una continuazione della guerra con altri mezzi, perché noi viviamo in un sistema estremamente conflittuale e non è soltanto un conflitto tra gli stati o tra le classi, è tra le imprese, è tra le differenti frazioni di borghesia. Tutto questo può dare benissimo atto a conflitti anche più grandi. È chiaro che finché si può si mantiene tutto sul terreno locale, ma questo non è da escludere. Per quanto che diceva Antonio, è vero, è difficile oggi pensare a coinvolgere dei ragazzi dicendo dai, vai a difendere la patria, no? Questo è un fatto. Ma d'altra parte, noi pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale come mobilitazione fascista, ma se andiamo a leggere quello che è successo in Italia prima della Prima Guerra Mondiale, prima della discesa in campo nel 1915, noi abbiamo una resistenza fortissima alla guerra, ma veramente forte. Bisogna andare a rileggere i libri che parlano di quella resistenza fortissima di contadini, di donne, di giovani che non volevano, le donne che andavano a fermare i treni, le tradotte, eccetera. Quindi questa è una questione... oggi si ripete in maniera strana, no? Rispetto a quello che si diceva prima, vado veloce e chiudo. In Afghanistan e Iraq hanno girato 2 milioni di soldati americani. 2 milioni di soldati americani sono tanti, non saranno solo latinos, saranno neri, saranno bianchi poveri, saranno di vario genere. L'importante è che 500.000 di questi, il 25%, sono tornati a casa con dei disagi fisici, psichici, enormi, giganteschi, cioè 500.000 soldati sono tornati a casa fortemente danneggiati a livello psicologico e fisico. Quindi questo è un problema che ricade sulle famiglie, che ricade sulla società, che si ricade sui comportamenti. È evidente che la gente ne ha le balle piene di queste guerre. Le balle piene, sicuramente. Pensiamo che i morti sono stati in Afghanistan 2003, insomma, complessivamente con l'Iraq 7.000. In Vietnam ci sono voluti 70.000 morti per giungere a una situazione di disagio simile. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona più, no? La classe operaia sciovinista bianca della guerra del Vietnam, sì, oggi è magari razzista, filo Trump, eccetera, ma non è più così favorevole alla guerra, non ne vede utilità nelle proprie tasche. No, semmai poi vede che ha dei figli che vanno lì a farsi mutilare inutilmente. Quindi tutte queste cose pesano enormemente sugli Stati Uniti, pesano sulla politica americana sicuramente, sulle scelte. Io ho sempre detto che in fin dei conti, fino alla fine del XX secolo, nel XX secolo erano finite due guerre a causa della mobilità, cioè, Seconda Guerra Mondiale è finita in un disastro totale perché non c'è stata in realtà alcuna opposizione alla guerra vera dal basso, però due guerre sono finite sull'opposizione: la Prima Guerra Mondiale con la rivoluzione russa e poi il pericolo di rivoluzione che si è sviluppato in tutta l'Europa nel 17, Caporetto compreso, eccetera, e quindi i tedeschi hanno dovuto ritirarsi in fretta e furia prima che invece di un normale passaggio di poteri tra imperatori e repubblica socialdemocratica ci fosse una rivoluzione, e la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam è stata una cosa, cioè noi guardiamo male gli Stati Uniti se non vediamo questa cosa qui. C'è stata resistenza etnica, c'è stata resistenza dei neri, c'è stata resistenza degli studenti, c'è stata resistenza dei veterani, cioè c'è stata resistenza al fronte. I soldati neri, un attimo finito Antonio, i soldati neri che buttavano le bombe a mano dentro le tende degli ufficiali bianchi al fronte. Quindi voglio dire, situazioni disastrose in cui anche lì hanno vinto davvero i vietnamiti o di nuovo hanno perso solo gli americani? Hanno perso gli americani perché non riuscivano a far fronte a quella guerra lì. Hannah Arendt se lo dice in un libro che ho commentato sui Pentagon Papers dell'epoca, dice quelli hanno perso perché non conoscevano il territorio, non conoscevano la cultura e non si rendevano conto che quel territorio non era adatto alla loro guerra tecnologica, no? Poiché gli altri fossero così forti da vincere militarmente è discutibile, sicuramente negli Stati Uniti la gente non ce la faceva più, punto, esattamente come con l'Afghanistan, dove di nuovo gli americani non hanno preso in considerazione il territorio, la cultura, la resistenza, tutte le cose che si potevano dire già del Vietnam, e hanno preso una sberla. Poi è vero che dietro le corporation vogliono l'investimento militare, e l'ho scritto più volte, è chiaro, lì chi si guadagna sono solo quelle, non ce ne sono altre da questo punto di vista. Anche le altre, figurati, sì. Qualità cartigenica, del gasolio, sì, ma tutto, cioè, dall'imbarco, la guadagnata. Sì, difatti basta vedere quali erano i, ma sì, ci guadagnano tutti. Da una volta avevo provato a fare un elenco, da quelli che producono le forbici, i calzini, le mutande, tutti forniscono gli eserciti e vanno in questo senso. Però poi ci sono gli imprevisti. Io ricordo sempre una frase di Trotsky che secondo me vale per tutte le guerre. Si sa sempre poi dove comincia una guerra, ma mai dove finisce. Questo è il problema, che sia grande, che sia piccola, che sia su vasta scala, su una scala ridotta, comunque gli ultimi decenni ci hanno fatto vedere che è un libro che ho recensito recentemente, il giornalista americano che ha intervistato tutti i generali possibili, tutti hanno detto non avevamo una strategia, non sapevamo perché eravamo lì, non abbiamo capito niente di quel paese. E noi potremmo dire ce la siamo prese anche nella giacca, perché voglio dire, se vai, se fai la guerra soltanto su quella cosa, questo scatena in casa delle reazioni e questi sono poi i pericoli per la politica americana e italiana. Io ci ho tenuto a sottolineare questo aspetto militare, i territori, perché visto che spesso poi sembra che il capitalismo sia imbattibile in tutti i suoi aspetti, anche qui nel cuore dell'Occidente, se nuovamente ci fossero grosse insurrezioni, contrarietà ai governi che scenderebbero subito sul piano della guerra combattuta, perché insomma vediamo quali sono le reazioni vere, non adesso i cortei no Green Pass che fanno ridere, ma le reazioni che sono state con i Gilets Jaunes, con altri nuovi tipi di granate, proiettili di gomma, si fa in fretta a passare al piombo sulle... Però le città che hanno una certa densità abitativa e hanno un certo numero di abitanti sono delle brutte bestie. Continuiamo a dirlo questo, perché se no diamo sempre al capitalismo e ai suoi apparati una veste di invincibilità, di superiorità che non ha. È tutta aria fritta molto spesso, hanno una grande potenza, ma dopo, esattamente come lì, la balla che tu stai democratizzando e portando a libertà la puoi portare avanti fino a un certo punto, poi quando superi un certo livello non è più credibile né al tuo interno né all'esterno. Chiudo, scusatemi. Grazie. C'è qualcun altro? Francesco voleva replicare, non so, però se c'è qualcuno ha alzato la mano. Sì, lo faccio dopo. Ha alzato la mano? Io. Io non ti... Però parla pure. Poi allora, dire. Io mi, Sandro ha messo in luce una cosa importante, e la questione dell'aumento del proletariato urbanizzato a livello non solo locale afgano, ma se vogliamo mondiale. Mentre noi stiamo discutendo appunto di Afghanistan, i francesi si sono ritirati da grosse città del Mali, grosse città in cui poi noi andremo a intervenire, noi italiani andremo adesso con l'accordo con la Francia a intervenire in quella zona. Comunque ciò che conta secondo me mettere in luce, non solo sulla base dell'esperienza afghana ma dell'esperienza irachena e dell'esperienza yemenita, è che nessun esercito, sia capitalistico sia imperialistico, per capitalistico intendo quello degli Emirati Arabi Uniti, che sono dei macellai veramente impressionanti, o dell'Arabia Saudita, per imperialistico quello degli Stati Uniti, ma non solo, può controllare il proletariato urbanizzato o il semiproletariato o comunque le masse urbanizzate. E poiché abbiamo un aumento della popolazione che è stato impressionante negli ultimi 30 anni, questo va messo in conto da due punti di vista. Il primo punto di vista è l'incoercibilità, malgrado la forza enorme e la decisione di usarla da parte degli eserciti, l'incoercibilità delle masse urbanizzate, impoverite, lavoratrici, dipende dai punti di vista, che vengono colpite ma non possono essere matte, perché devono sopravvivere in una condizione impossibile, e bene o male lo fanno combattendo, cioè opponendosi alla presenza degli eserciti. La seconda questione è la decisione degli eserciti, dei comandi militari, e cioè dei comandi politici degli stati in guerra, di usare armi sempre più letali. Questo, se vogliamo, è stato fatto in Vietnam alla luce della industrializzazione, dello sviluppo tecnologico di allora, ma oggi viene fatto, oggi e non solo da oggi, quantomeno da 30 anni, viene fatto a livello tecnologicamente molto più avanzato. In Vietnam abbiamo avuto l'agente arancione, in Bosnia, in Serbia e in altri teatri di guerra abbiamo l'uranio impoverito e così via, più altre diavolerie molto peggiori che sono venute in questi anni. Però dobbiamo mettere in luce proprio questa incoercibilità al controllo militare, il che non significa che questo controllo non venga esercitato, ma che è reso sempre più difficile. Questo pone dei problemi a noi nel senso che ci richiamiamo al comunismo, perché pone dei problemi sia per gli operai giovani, parlo di operai ma dovrei dire i proletari, nel senso più ampio del termine, i giovani e anche altre semiclassi dei paesi imperialisti aggressori da un lato, che come abbiamo detto soffrono della guerra, ma una parte però ci guadagna con la guerra, o pensa di guadagnarci più esattamente, e dall'altro lato l'enorme aumento del proletariato nei paesi aggrediti e nella cintura di quei paesi. Basta pensare a quello che sta succedendo nel Sahel in questo momento, nello Yemen, e vedere anche in Siria, e vedere anche un altro fatto che è importante, che nello stesso Afghanistan, nello stesso Iraq, durante la guerra, cioè sono paesi che hanno subito 30 anni di guerra, 40 anni di guerra, la popolazione impoverita, la popolazione urbanizzata è enormemente aumentata e può sopravvivere soltanto se trova un lavoro qualsiasi, un'occupazione qualsiasi, di un giorno per una settimana, di un mese per un anno. Però è una lotta per la sopravvivenza che può portare anche a conseguenze politiche non indifferenti nello scontro con gli eserciti occupanti. Ora, fino ad ora sono state guerre locali, locali non nel senso che non avessero una importanza regionale o addirittura mondiale. Basta vedere la Siria, che se vogliamo può essere interpretata la guerra di Siria, che ancora continua a livello sociale, a livello locale, a livello regionale, a livello mondiale imperialistico. Ma detto questo, è logico che gli imperialisti, che hanno usato alcuni mezzi, alcuni sistemi di controllo della situazione, dovranno passare a forme ancora più terrificanti. Io non vedo, non leggo la guerra soltanto all'economia, e questo ci pare troppo evidente, perché è chiaro che l'economia può vivere soltanto nella carne e nel sangue degli uomini e delle donne e soprattutto delle classi. Per cui ridurre tutto a questioni economiche senza vedere l'organizzazione sociale, l'organizzazione politica che è necessaria ai tempi attuali, mi pare molto riduttivo. Quello che ha detto Sandro mi trova d'accordo e andrebbe sviluppato anche alla luce di queste considerazioni molto generali che ho fatto io. È cambiato il mondo non solo perché cambiano i rapporti tra le potenze dominanti, ma perché cambiano i rapporti anche tra le classi, nel senso che la crisi del capitalismo e del sistema, la disgregazione del sistema imperialistico cui faceva riferimento Francesco, portano alla difficoltà del controllo delle masse e del loro movimento. Adesso Quindi mi pare che come centro di documentazione dovremmo prendere questi spunti e dedicare, dovremmo discutere tra di noi, dedicare anche ulteriori riunioni a questi aspetti. Finisco poi su un'altra considerazione. Noi non dobbiamo vedere le spese militari soltanto in assoluto o in relazione al prodotto industriale, perché tutte le statistiche borghesi sono comunque taroccate, nel senso che sono taroccate per motivi politici, dal potere. Il Milex l'ha messo in luce per quanto riguarda le spese militari italiane, nel loro piccolo, tra virgolette piccolo, lo stesso si potrebbe dire per le spese militari americane. Ma dobbiamo vedere soprattutto come, qual è la qualità tecnologica di queste spese, qual è la loro capacità tecnologica di massacro. E in questo penso che purtroppo ancora oggi gli Stati Uniti non siano secondi a nessuno e stiano sviluppando nuovi armamenti che, grazie al loro comunque predominio tecnologico, basta pensare a quello che è successo con la Pfizer in campo farmaceutico, o quello che succede adesso mentre noi parliamo, che ci avvaliamo purtroppo dei canali di Google o di quello che è. Gli Stati Uniti sono ancora un vantaggio tecnologico non indifferente sulla Cina e sulla stessa Russia, e a questo vantaggio tecnologico si sta aggrappando come ancella, ma come ancella reazionaria, anche l'industria italiana, la politica statale italiana in questo momento, salvo il salto della quaglia in caso di guerra guerreggiata, ma questo lo vedremo poi. Ho finito. Bene, ho visto che ha alzato la mano Valeria, può parlare? Sì, l'ho aperto. Mi limito a delle note a margine a questo punto, perché vedo l'ora e vedo che i temi sul tappeto sono tanti. Prima nota a margine. Credo che dovremmo smettere di pensare in termini di lotta per l'egemonia. È possibile, secondo me probabile, che dobbiamo tenere conto di un teatro globale che non ha più necessità, e di un capitalismo globale che non ha più necessità o tendenza a ricercare una potenza egemone a livello globale, ma piuttosto a una serie di egemonie che non sono necessariamente locali, ma che possono esprimersi ancora su un terreno non locale, tenendo presente però che il passaggio importante dal punto di vista qualitativo e di espansione delle guerre è il fatto che non è più così facile combatterle attraverso fazioni che si combattono all'interno di un paese, una certa località. Qui si stanno muovendo nazioni. E quindi mi sembra possibile che si arrivi a uno scontro più diretto, cioè per intenderci la nazione che più di tutte si sta armando, si sta muovendo, la Turchia, ma anche Pakistan, Afghanistan, India sono nazioni, anche l'Afghanistan a questo punto è una nazione, ed è una nazione assediata su tutti i lati. Gli Stati Uniti hanno comunque la capacità di colpire in Afghanistan, e l'hanno mantenuta dalla costa, perché mantengono lì la loro potenza marittima, armata con una potenza di fuoco notevole. Comunque sono già due questioni. Perché parlare sempre di egemonia globale? Uno. Due, l'Afghanistan ha ancora una sua centralità, tant'è che da una parte appunto ci sono gli americani, non solo lo stanno controllando dal mare, ma cercano di piazzare basi militari nelle repubbliche centroasiatiche. di cui la più fragile a questo punto pare essere il Tagikistan, ma non ci metto le palle. La questione della certo, la guerra nelle città. La guerra nelle città, anche Marco aveva fatto una relazione ai tempi sulla, proprio su questa questione, portando l'esempio di Mosul, giusto? La guerra nelle città si combatte diversamente, effettivamente si combatte da non solo con l'uranio, col fosforo, vogliamo ricordarci di cosa è stato fatto in Iraq, la Fallujah, mi riferisco. Non sappiamo quanto questo tipo di aggressione armata può effettivamente estendersi. Da tenere, ecco, ultima, ne salto un casino, se no non finisco più. L'ultima cosa, ci sono le guerre islamiche, non solo degli islamisti contro di noi e all'interno dei propri stati, perché chi ne fa le spese poi sono soprattutto le popolazioni islamiche, ma la competizione che sta per svilupparsi in conflitti molto più allargati, per esempio tra Turchia e Arabia Saudita, ma non solo, le fazioni, cioè per quale mai motivo l'ISIS ha cercato di prendersi dei territori per avere a disposizione degli stati, non ci sono arrivati, non è in discussione sul momento che ci arrivino, ma si muovono in pratica dei nuclei molto più importanti che non le fazioni, che non i proxy nelle fazioni locali. Vedremo cosa succede in Libia, dove c'è in corso dal mio punto di vista un esperimento di ricostruzione di un'intera società che sul momento pare andato, per fortuna, male, ma c'è un allargamento abbastanza diverso dei conflitti da quello che pensiamo. Allora si potrebbe arrivare allo scontro interimperialistico, magari no, non direttamente, ma possiamo essere tirati dentro da guerre scoppiate all'interno del mondo musulmano. Le ho dette così molto schematicamente e velocemente perché sono 19:40, forse è meglio che mi fermi qui. Diciamo che sono solo note a margine e domande. Grazie. C'era un altro che aveva alzato la mano, Rosario? Sì, sì. Puoi parlare? Faccio vedere così. Si vede? Sì. Ok. Bene, sono Rosario, compagno di Proletari Comunisti. Abbiamo deciso di partecipare perché chiaramente ogni contributo che permetta di aggiornare la situazione a livello di analisi internazionale dell'imperialismo e delle guerre è utilissimo per procedere appunto nel cammino che ognuno, diciamo, ha in corso. Per quanto ci riguarda, il lato fondamentale è l'internazionalismo proletario praticato concretamente. Diciamo che nella tutta l'argomentazione, dall'introduzione, diciamo, a prescindere delle posizioni che, di fondo, diciamo, che sono in questo momento, che sono, possono essere diverse, sono oggettivamente diverse. Alcune cose nell'appello iniziale, per esempio, che ci interessavano era tra quello che dice rispetto agli effetti nei rapporti tra le classi all'interno di questi paesi, cioè dei paesi coinvolti nel rapporto fra Afghanistan e dopo il ritiro, che significa appunto Cina, Russia, eccetera, anche negli altri, India, Pakistan. Questi rapporti all'interno, per noi, rapporti tra le classi, qualcuno l'ha accennato, sono molto importanti, perché mettono al centro l'altro lato della questione di cui non si è parlato abbastanza, credo, stasera, ma fa parte di quell'elenco di cui faceva Francesco, solo accennato, cioè com'è la resistenza, in che cosa, come si sviluppa la resistenza in questi paesi, come si organizza, ci sono partiti, non ci sono partiti, le masse popolari che cosa fanno. Con questo nell'Afghanistan in questo momento forse è messo più in luce più di altri, perché c'è tutta questa cosa che fa parte dei punti che elencava Francesco e che ripeto anch'io, perché secondo me questi erano i punti forse da approfondire di più in questo caso, oppure quello che a noi a me interessava di più in questo momento, per esempio il ruolo dell'Italia, diceva, perché la guerra imperialista, che l'imperialismo è guerra per noi, è un'endiadi, si riversa sulle masse popolari. Cioè il problema del proletariato mondiale, che è esattamente crescente in maniera esponenziale, basta pensare alla classe operaia in Cina e in India, diciamo, in questo momento, si riversa, quindi ogni azione che coinvolga sia la guerra in sé, diciamo, lo sviluppo, ma tutto quello di cui si è parlato, le spese militari, eccetera. Ricordo male, ma credo bene o male gli Stati Uniti fino all'anno scorso hanno speso 780 miliardi di dollari per l'apparato militare, e che sono l'equivalente di diversi prodotti interni lordi di diversi paesi, quindi non una bazzecola, e non parlerei tanto di abbassamento dei livelli, certo in percentuale, diceva Francesco, però è sempre una cifra veramente spaventosa. Quindi il ruolo dell'Italia, perché la guerra si riversa sulle masse popolari, quindi da questo noi quando agiamo nelle azioni che facciamo concretamente hanno interesse, perché approfondendo si ricavano anche le parole d'ordine da portare tra le masse, gli operai eccetera, quelle giuste. Per esempio contro la guerra è una delle parole d'ordine che stiamo agitando e che a noi piacerebbe tanto, diciamo, come cosa oggettiva e seria, organizzare qualcosa, man mano cominciare a organizzare tra le masse qualcosa che dica contro la guerra. Tornare, è da un po' che anche i borghesi ci criticano il fatto che noi non siamo in piazza contro la guerra di questi tempi. L'altro punto era la classe. Le classi di cui parlava appunto Francesco sono come sono organizzate, quali classi, per esempio l'Afghanistan, è chiaro che in parte è facile, in parte è più difficile, diciamo, avere delle idee precise sulla quantità di classe operaia, sulla quanto pesa la classe media, come la chiamano loro, in questi paesi, che incidenza hanno, in che forme sostengono il rapporto con i paesi imperialisti. In che senso questo settore è più facilmente penetrato, è quello che i compagni afghani chiamano i settori di borghesia compradora, quindi che si legano in un modo o nell'altro ai paesi oppressori, ai paesi che opprimono. E poi la questione fondamentale delle donne, perché giustamente tutta la propaganda in questi ultimi giorni, quella che è stata fatta nel rientro, nel rimpatrio, eccetera eccetera, è stata fondata sul rispetto dei diritti delle donne. Portiamo le donne hanno dato un contributo, erano libere tra virgolette all'interno, come sappiamo tutti è stato accennato, ed è un'enorme propaganda dell'imperialismo mondiale per giustificare ancora una volta invece, diciamo, che la loro forma di essere paesi che esportano la democrazia libererebbe le donne in questi paesi. È naturalmente una di cui sappiamo tutti che è una enorme bugia a livello planetario, e sosteniamo, abbiamo detto noi pubblicamente, invece quelle donne che restano in Afghanistan a combattere, diciamo, a combattere come hanno fatto in questi anni. Anche il riferimento al RAWA, all'organizzazione delle donne, è importante, ma ci sono diciamo anche a qualche altro documento abbiamo visto che parla delle donne. Quando parliamo di internazionalismo proletario e di rapporti interni alle classi, per esempio ci riferiamo, faccio solo questo esempio poi chiudiamo perché appunto è tardi, all'India. Se uno pensa in come si riflette la vicinanza dell'Afghanistan con l'India, in che forma l'India si riarma in maniera bestia, sì, ma perché si riarma l'India? Per noi quello che ci dicono i compagni del Partito Comunista dell'India Maoista è che fondamentalmente, avendo una guerra interna, e questo lo ha detto prima Manmohan Singh e adesso lo ripetono i nuovi Modi e il resto, che è la più grande minaccia interna al paese è quella della guerra popolare in corso. E non solo, a questa si è unita per le contraddizioni interne uno sciopero di 250 milioni di lavoratori in generale in tutta l'India l'anno scorso, due anni fa credo, e poi la lunga lotta dei contadini durata un anno, che ha vinto e ha costretto Modi a ritirare le leggi sull'agricoltura. Quindi questo Questo rapporto interno tra le classi è fondamentale interesse per sapere in che forma si indeboliscono, si rafforzano, che forza ha l'India davvero nei confronti dell'Afghanistan, dove può arrivare con gli sforzi rispetto alle spese militari di cui parlavano i compagni. E questo internazionalismo proletario portato in queste forme nell'interno della tendenza alla guerra, perché sappiamo che è una tendenza nella guerra diretta, come diceva la compagna, nella guerra che possiamo finire diretta fra gli stati, perché quella per interposta persona li abbiamo viste dal dopoguerra ad adesso, diciamo, ed è una guerra che si scarica sui paesi oppressi dall'imperialismo. O in questo senso devo dire che non è indifferente per niente rispetto all'Afghanistan, che conta o non conta. L'Afghanistan, come tutti i paesi oppressi dall'imperialismo, conta e come è il luogo dell'imperialismo, è il luogo dove l'imperialismo scarica le proprie contraddizioni, si fa la guerra per interposta e estrae tutte le materie prime che gli servono, perché gli Stati Uniti puoi tirare fuori alla fine, no, fino a qualche anno fa manco il petrolio avevano più che era sufficiente. Quindi i paesi oppressi dall'imperialismo sono l'oggetto dell'imperialismo, altro che non contano, non servono. Quindi una visione aggiornata dell'imperialismo attuale e di tutto questo elenco che ha fatto appunto Francesco, che è molto interessante da approfondire, significa rivedere la linea generale che noi appunto come cose concrete portiamo tra le masse per trovare le parole d'ordine giuste contro il proprio imperialismo e avere un'opportunità, diciamo, di dire la parola giusta al momento giusto e possibilmente l'azione giusta al momento giusto. Grazie. C'è qualcuno? Io Mani non ne vedo più. C'era Francesco, sì, a dire. C'è anche la mia di mano, ma se posso solo un'aggiunta brevissima. Dal punto di vista della guerra imperialista non si tratta solo di rapina ed esproprio delle risorse, ma anche di circolazione delle merci, e per questo alcuni paesi come l'Afghanistan sono importanti, cioè le vie di transito dell'energia e delle merci. Francesco, dovevi dire una cosa? Sì, volevo dire un po' su quello che si è dibattuto, alcune cose. Se non ho capito male quello che intendeva dire Valeria, non penso che ci sia il problema di trovare un capitalismo egemone e che ci debba necessariamente essere un capitalismo egemone. La storia che abbiamo avuto finora ci ha fatto vedere prima l'egemonia dell'Inghilterra, poi l'egemonia degli Stati Uniti. Queste sono entrate in contraddizione, quella dell'Inghilterra è tramontata, quella degli Stati Uniti sta tramontando, ci sono dei concorrenti più o meno pronunciati, al momento non c'è uno che possa diventare quello che lo sostituisce. Questa cosa la vedremo. Il problema è comprendere, secondo me, che nel processo di riproduzione del capitalismo non è infinita la fase in cui uno è dominante, proprio interno al suo modus operandi economico e politico-sociale, che questa cosa viene meno. Come poi si svilupperà? Se vedremo la nascita di uno solo o una situazione multipolare, come adesso, lo valuteremo. Non è questo l'aspetto centrale. Questo è l'aspetto centrale oggi, sia comprendere che quel mondo che ci ha accompagnato, specie noi per una certa età, è definitivamente finito, che però la sua fine non porta pace, ma porta ancora più guerra, per tutta una serie. Questo è l'aspetto centrale. Su questo condivido un po' quello che hanno detto sia Ivo che Sandro sul legame che non è solamente economico della guerra, senza negare il ruolo dell'industria militare americana e anche del lavoro di lobby per le scelte politiche che queste fanno, che è enorme. La guerra non si spiega né si ragiona solo per quello, non va in guerra anche noi semplicemente perché l'ENI ha lì i pozzi, ma perché c'è un sistema più generale di rapporti, anche per inerzia, perché si è sempre fatto. Non possiamo dire, non so, nelle scelte sul Sahel e così via, che è stato solo l'amministratore delegato dell'ENI a far mandare le nostre truppe, ma anche perché gli imbecilli che abbiamo al governo hanno sempre visto fare così, tra virgolette, consentitemi questo paradosso, e si va avanti così perché ci sono questi interessi e settori del capitale, come quelli di, che si esprimono sull'IMES, fanno il pianto greco che l'Italia non ha le sue truppe dove ci sono. Una cosa che volevo dire, io forse l'ho espresso in maniera un po' troppo da una parte, perché ho letto delle cose che mi spiegavano, volevano spiegare che in Afghanistan la lotta popolare ha sconfitto gli americani, eccetera. Questo non è avvenuto. È vero che gli americani non hanno vinto nemmeno i talebani, però è vero, e forse non ho dato bene questo messaggio, questa impressione, che l'imperialismo e il capitalismo anche con questi esercizi non è sempre invincibile. In questo caso abbiamo visto la sua incapacità. Forse, riprendendo quanto si diceva da Sandro, non è che probabilmente non hanno valutato il territorio, il terreno, cioè, l'hanno valutato male. C'era stata tutta una serie di studi su quello che era stato il Vietnam da parte dell'esercito americano, applicati poi nella guerra in Iraq. Scelta principale, se vogliamo, dare il monopolio a un'agenzia di stampa delle conferenze del comandante in capo e creare i giornalisti al rimorchio delle truppe, non più i giornalisti liberi e così via, tutta una serie di gestioni. Probabilmente la scelta, soprattutto tecnicamente militare, non è stata giusta nel senso che ritirarsi a Fortino, nonostante la presenza, non ha consentito di controllare e distruggere l'avversario sul territorio, anche perché contemporaneamente non hanno sviluppato niente dal punto di vista economico e nessuno può pensare di vincere una guerra militare senza avere un contraltare in questa situazione quel terreno. E è stata una cosa molto importante da cercare di comprendere. Quell'esempio che si ritrova fuori, NATO 2020, va in questo senso. E in questo senso va una cosa che è stata sollevata: i soldati robot e i sistemi di arma robotica autosufficienti a riconoscimento sono uno degli strumenti che sono necessari, che vengono ritenuti tali, proprio in funzione anti-uomo, anti-contesto urbano. Il teatro principale di sperimentazione è Gaza, in questa fase, e penso che sono tutte cose che vanno a creare questa nuova situazione con cui dovremo fare i conti e che in qualche modo porterà alla guerra. Se non ce la porta nelle metropoli, a parte che qualche volta ce la porta, perché le bombe dell'islamismo radicale, morti ne hanno fatti anche qui, e sono uno degli aspetti di questa guerra, dei terrorismi contrapposti, penso che dobbiamo tenere conto. Ultima cosa, che i giovani non vogliono fare la guerra, è vero, però è vero anche fino a un certo punto. Chiuso solo noi, in Italia non abbiamo ancora chiuso con l'esperienza storica della prima guerra mondiale, abbiamo ancora la negazione di quello che è avvenuto a livello di storia ufficiale, delle fucilazioni, dei soldati messi sulle trincee per essere fucilati dagli austriaci perché erano disertati, eccetera. E io penso, poi sarà, se fosse sconfessato dalla storia, tanto meglio, l'esempio jugoslavo di come nel precipitare della situazione politica e non solo semplicemente economica si siano accorpati e creati fronti di guerra, anche in assenza di un'autonomia di classe, penso che sia un aspetto fondamentale che ci troviamo a rivivere noi nel contrasto interimperialista, intercapitalista, e in tutti questi paesi in cui c'è la capacità di consegnare e consegnare le guerre, in questa fase le masse locali o si schierano con una parte o con l'altra in campo, e questo penso sia il grosso problema. Chiudo qua, ho già detto. Va bene, se non c'è altro possiamo anche chiudere. Una sola precisazione, Marco. Sì. È vero che gli Stati Uniti hanno perso in Vietnam su questo e non hanno vinto in Afghanistan, potevano continuare anche a starci, né hanno vinto in Iraq. Però è anche vero che la guerra in Vietnam fu fatta all'epoca del containment antirusso e anticinese, viene dopo la guerra di Corea, ed è servita quantomeno a costituire quel vasto mercato asiatico col Giappone, che poi in un'epoca diversa ha portato alla costituzione, proprio col Vietnam, con il Vietnam, di un mercato e di una alleanza più o meno importante in funzione anticinese. Quindi le guerre, non dobbiamo sottovalutare le classi dominanti americane, ragionano al loro modo apparatico, diverso da quello europeo, ma hanno dimostrato anche, malgrado gli evidenti errori sul lungo periodo, di saper manovrare e di uscire. Per cui gli Stati Uniti, proprio perché declinano, fanno ancora più paura del passato, secondo me. Se non ci sarà un movimento interno, dovremo subire le loro orribili azioni future. Posso dire ancora una cosa? È evidente che si parla spesso, non so se avete visto, del paradosso di Tucidide, no? Cioè, chi sarà quello che deve attaccare per primo? Io penso che in questo momento al mondo quelli che sono destinati a portare la guerra sono gli Stati Uniti. Se non vogliono perdere comunque il loro primato, anche militare, sono condannati. La Cina può aspettare perché è più debole, ma perché ha una strategia politica più a lungo termine. Cioè, chi deve svilupparsi, chi vede possibilità di sviluppo, ha più tempo, no? Così come avevano più tempo gli afghani degli americani. Gli afghani, i Pashtun, facevano le offensive di primavera e estate, poi in settembre e inverno si ritiravano. Gli americani dovevano sempre essere all'attacco, allo stesso tempo subire, no? Ci sono proprio strategie diverse, mentalità diverse. Sulla superiorità militare americana non ho dubbi dal punto di vista tecnologico, però stiamo attenti, perché sia russi che cinesi hanno sviluppato una capacità di hackeraggio molto maggiore di quella americana. E allora, rispetto a reti elettroniche, rispetto a tutto un sistemi d'arma sempre più elettronici, anche questa capacità qui può rivelarsi molto importante nel bloccare, danneggiare, eccetera. Fa parte della guerra proprio. Fa parte della guerra, cioè non dimentichiamo questi aspetti. Un'ultima cosa rispetto a quello che diceva il compagno prima: sì, è vero che poi gli americani hanno trovato un alleato nel Vietnam, però la guerra del Vietnam l'ha persa. Poi sì, che sì, dopo sì. 40 anni siano alleati, beh, anche l'Italia ha fatto la guerra con questo e quello, poi si è ritrovata alleata gli inglesi e pure tutti gli altri. Quindi vuol dire, il capitale è fatto così: fa le guerre, le perde, le vince, poi è costretto a allearsi con i nemici di prima, e insomma abbiamo visto per tutta la storia, insomma è un po' la storia delle classi al potere, non solo capitale, anche quelle prima, precedenti, dovevano muoversi in questo momento, per cui non mi stupisce affatto questa cosa. L'importante è che se si fa una guerra, insomma, io penso che sarebbe meglio vincerla. Se si perde o non si vince è sempre un problema, che in qualche modo ricade poi sulla politica, sulla società e tutto quello che abbiamo detto, mi ripeterei. Grazie. Dico solo una cosa, che non dimentichiamo che quando parliamo del DNA parliamo di un'epoca dove vi era un peso fondamentale delle famose lotte di liberazione nazionale. Se dimentichiamo di questo, togliamo un pezzettino all'importanza della battaglia del Vietnam. Okay. Detto questo, se non c'è altro, possiamo chiudere. Perché siamo stanchi, vecchi e... Biden è più vecchio di noi, Ci siamo. Possiamo chiudere oggi? Qua c'è ancora qualcuno che vuole... Chi tace acconsente? Ti saluto, Marco! Ciao! Ciao, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao.